La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla vicenda Pinelli Calabresi, rievocata lo scorso sabato 9 maggio dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della cerimonia in ricordo di tutte le vittime del terrorismo. Ospite ai nostri microfoni Francesca Dendena, Presidente dell'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969. Nella seconda parte del programma vi proponiamo, in collaborazione con Radio Svizzera Italiana, un radiodocumentario dedicato al futurismo, la più importante avanguardia artistica dell'Italia del XX secolo. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Entrambe le nostre famiglie sono state vittime di un clima di odio e di sopraffazione. Con queste parole, Licia Pinelli, vedova del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, morto il 15 dicembre del 1969, precipitando da una finestra della questura di Milano, ha commentato l'invito che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha rivolto perché fosse presente lo scorso 9 maggio al Quirinale alla cerimonia in ricordo di tutte le vittime del terrorismo. La vedova Pinelli è andata al Quirinale e per la prima volta dopo 40 anni ha incontrato Gemma Capra, la vedova del commissario Luigi Calabresi, assassinato il 17 maggio del 1972. Da allora una lunga scia di sangue, di stragi, omicidi e attentati ha sconvolto, come sappiamo, il nostro paese. Estremismo di destra e di sinistra, con un unico obiettivo: destabilizzare le istituzioni e l'ordinamento democratico. Gli anni di piombo sono senza dubbio una delle pagine più drammatiche e oscure della nostra storia recente. Ascoltiamo quel che ha detto il presidente Napolitano. Questo giorno della memoria ci offre l'occasione per accomunare, nel rispetto e nell'omaggio che è loro dovuto, i familiari di tutte le vittime, come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi, di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza. Qui si compie un gesto politico e istituzionale. Si rompe il silenzio su una ferita non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Un gesto, quello di Napolitano, che va chiaramente nella direzione della riconciliazione, ma anche del giusto riconoscimento a quanti in questi 40 anni non sono riusciti a ottenere giustizia. Clima di odio e di sopraffazione. Era esattamente quel che si respirava in quegli anni. La bomba esplosa il 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Aveva provocato la morte di 17 persone e il ferimento di altre 88. Era l'inizio di quella che sarebbe stata definita la strategia della tensione. Il commissario Luigi Calabresi venne incaricato di condurre le indagini. La prima pista battuta fu quella dell'estremismo di sinistra. Dissidenti, anarchici, operaisti. L'episodio chiave avvenne proprio nel corso delle prime indagini sulla strage di Piazza Fontana. L'anarchico Giuseppe Pinelli, convocato nei giorni immediatamente successivi all'attentato, precipitò da una finestra della questura di Milano. Su quell'episodio, a distanza di 40 anni, deve essere ancora fatta piena luce. Prese avvio una martellante campagna in cui si avanzò il sospetto che Pinelli fosse stato gettato dalla finestra durante l'interrogatorio. Calabresi venne accusato di aver partecipato al fatto. Campagna che culminò nella pubblicazione da parte dell'Espresso, tra il 13 e il 27 giugno 1971, di un appello sottoscritto da 757 intellettuali, politici, scrittori, tra cui ricordiamo Giorgio Amendola, Giulio Carlo Argan, Nanni Balestrini, Andrea Barbato, Franco Basaglia, Marco Bellocchio, e poi ancora Bernardo Bertolucci, Alberto Bevilacqua, Tinto Roberto Brass, infine Liliana Cavani, Camilla Cederna, Umberto Eco, Giulio Einaudi, Dario Fo, Alberto Moravia, Giancarlo Paglietta, Pierpaolo Pasolini, Fernando Pivano, Paolo Portoghesi e Mario Soldati. Il processo che doveva fare luce sulla morte di Giuseppe Pinelli si è arrestato davanti alla bara del ferroviere, ucciso senza colpa. Chi porta la responsabilità della sua fine, Luigi Calabresi, ha trovato nella legge la possibilità di ricusare il suo giudice. Il nostro sdegno è di chi sente spegnersi la fiducia in una giustizia che non è più tale, quando non può riconoscersi in essa la coscienza dei cittadini. Per questo, per non rinunciare a tale fiducia, senza la quale morirebbe ogni possibilità di convivenza civile, noi formuliamo a nostra volta un atto di ricusazione. Una ricusazione di coscienza, che non ha minor legittimità di quella di diritto, rivolta ai commissari torturatori, ai magistrati persecutori, ai giudici indegni. Noi chiediamo l'allontanamento dai loro uffici di coloro che abbiamo nominato, in quanto ricusiamo di riconoscere in loro qualsiasi rappresentanza della legge, dello Stato, dei cittadini. L'inchiesta della magistratura sulla morte di Pinelli, condotta dal magistrato Gerardo D'Ambrosio, si concluse il 27 ottobre 1975 con una sentenza assolutoria per Calabresi e per la polizia. La conclusione fu che la caduta avvenne a causa di un malore attivo e per l'improvvisa alterazione del centro di equilibrio. La morte venne classificata come accidentale, né suicidio né omicidio. Quel che è certo è che il commissario Calabresi non era presente nella stanza della questura quando Pinelli perse la vita. Abbiamo in linea il presidente dell'associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, Francesca Dendena, che è intervenuta lo scorso 9 maggio alla cerimonia al Quirinale in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Signora Dendena, ci racconta di come ha vissuto personalmente questa giornata che ha visto il significativo incontro tra le vedove di Luigi Calabresi e Giuseppe Pinelli? Ma io l'ho vissuta con grande emozione ed era comunque intenzione mia e anche degli altri familiari, l'avremmo difatti, l'ho ribadito nell'incontro, che Pinelli deve essere riconosciuto come la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana, e prima che il presidente voleva, pensavamo di fargli questa richiesta, cioè fare questa richiesta al presidente, come dire, un po' grossa come parola. Ci auguravamo che così fosse, che venisse anche lui, come dire, riconosciuto in quanto vittima. Quando è successo questi 20-40 anni fa, io avevo 17 anni e mi ricordo che questa cosa, tra altre cose, come dire, molto ingenuamente per l'età, mi meravigliai che quello che era, come dire, un imputato di un reato così importante fosse stato permesso, a causa di una distrazione, che si buttasse da una finestra. E mentalmente paragonai questa cosa qui al caso Oswald, quello che ha sparato al presidente, e da lì incominciai, fu una di quelle cose che incominciai a lavorarmi e farmi capire che qualcosa non andava, no? Cioè che se davvero Pinelli era davvero fatto un reato così grave, non doveva essere così libero in quella stanza, no? E incominciare a meditare su questa cosa qui e cercare di capire dove era davvero la verità. Quello che abbiamo lottato per tutti questi anni è, come dire, ancora in qualche modo una partita aperta, anche se 40 anni trascorsi rendono comunque già di per sé poco significativa la giustizia, o veramente non più così giusta, perché arriverebbe tardiva. Qualcosa si sta muovendo, secondo lei, anche grazie alle iniziative del presidente Napolitano, come dire, per attribuire quantomeno il giusto riconoscimento ai familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi, secondo lei? Io penso di interpretare come una grande apertura a questa posizione del presidente, cioè che sia un modo per dire: dopo questo apriamo gli archivi, che il processo di apertura dei segreti di Stato sia davvero rispettoso delle scadenze dei 30 anni dai fatti, e quindi per Piazza Fontana già potremmo sapere tanti omissis. Quindi sì, ci auguriamo di sì, per noi è un buon, diciamo, indizio

non gli si riconosce granché un'importanza culturale assoluta, ma sempre come capo di questa cosa che poi produce segni nella pittura, nelle arti applicate. Anzi, forse a Marinetti a volte gli si attribuisce la patente negativa, diciamo, della visione politica della cosa. Mentre Marinetti è assolutamente uno dei più grandi artisti del secolo passato, del 1900. Non solo italiani. Italiani sicuramente il più grande. Nel mondo uno dei più grandi, lo mettiamo tra i primi 4-5. Io non credo che ci siano persone che possano rivaleggiare con la sua capacità di ridisegnare il mondo e immaginare forme espressive con tale anticipo sui tempi. Il lirismo è la facoltà rarissima di inebriarsi della vita e di inebriarla di noi stessi. La facoltà di cambiare in vino l'acqua torbida della vita che ci avvolge e ci attraversa. La facoltà di colorare il mondo coi colori specialissimi del nostro io mutevole. Rimaniamo naturalmente ancora in tema di futurismo, proseguiamo o iniziamo il nostro discorso in merito anche a ciò che ha legato, unito il futurismo e le donne. Ne parliamo con la nostra prossima ospite, lei è Franca Zoccoli, è una storica dell'arte. Franca Zoccoli, l'occasione di questo nostro incontro è quello quindi di dar luce, di far conoscere meglio anche Marinetti attraverso che cosa? La relazione con la moglie, moglie artista. Chi era Benedetta? Benedetta era nata a Roma, aveva la vocazione della pittura ed era allieva di Balla, ed è proprio nella fantastica casa studio di Balla, completamente dipinta da Giacomo Balla con colori futuristi, nella quale la domenica si ricevevano ospiti, che Benedetta nel 1918 incontrò Marinetti. Lei aveva 20 anni e lui 41. Che cosa ha visto Marinetti nella produzione artistica di Benedetta? Marinetti si innamorò subito di Benedetta. Benedetta anche fu colpita da Marinetti, ma era molto cauta all'inizio del loro rapporto perché temeva di venire schiacciata da questa personalità prorompente del leader del futurismo. Piano piano però capì che Marinetti l'avrebbe sostenuta senza intaccare la sua autonomia, e Marinetti arrivò a dire: ammiro il genio di Benedetta, mia eguale, non discepola. Ma nella difesa della sua autonomia, Benedetta fu sempre molto attenta, tanto che, come del resto altre futuriste, volle firmare le sue opere con il solo nome di battesimo. Qual è stato, secondo lei, il contributo femminile al futurismo italiano nelle arti visive? Certamente hanno dato un contributo, direi forse maggiore di quello dei colleghi maschi, a una linea particolare, quella che è più vicina all'astrattismo. Le loro aeropitture, tanto per fare un esempio, sono aeropitture cosmiche, ma sono paesaggi, come è stato detto, visti non solo nella realtà, ma con una sorta di occhio interno. C'è un elemento lirico, c'è una grande presenza e consapevolezza del proprio corpo, delle proprie percezioni fisiche. Il calore di un pozzo di ferro o di legno è ormai più appassionante per noi del sorriso o delle lacrime di una donna. Proseguiamo le nostre riflessioni, le nostre considerazioni in tema di futurismo. Il nostro prossimo ospite è Valerio Terraroli, che insegna storia dell'arte contemporanea e storia del gusto delle arti decorative all'Università di Torino. Senza Marinetti ci sarebbe stato, secondo lei, il futurismo? E lei come vede, come giudica Marinetti? Una sorta di artista tout court, o piuttosto, o anche un geniale promotore e, per così dire, agitatore culturale? Insomma, quanto è stato artista e quanto invece uomo di immagine e di marketing, si direbbe oggi? Senza Marinetti certamente il futurismo non ci sarebbe stato, o perlomeno non sarebbe stato quello che oggi conosciamo. Marinetti io credo sia da configurare come un personaggio di largo spettro, certamente un intellettuale, certamente uno scrittore. Tutto questo fa sì che Marinetti sviluppi una straordinaria capacità di promotore del suo movimento, diciamo una splendida macchina da guerra, della organizzazione di un consenso il più sviluppato e il più largo possibile, e l'idea del manifesto che appunto viene pubblicato 100 anni fa nella prima pagina del Figaro, quando lui aveva già tentato di proporlo in Italia, significa evidentemente che Marinetti ha colto che Parigi è il luogo in cui può esplodere questo fenomeno del futurismo e avere grande spazio. Ecco, Valerio Terraroli, lei ci ha ricordato i 100 anni anche della pubblicazione del manifesto e poi dei manifesti del futurismo. Giustamente ci ha anticipato il fatto che lo stesso Marinetti aveva tentato di farlo pubblicare in precedenza. In parte così è stato, perché qualche cosa era già uscito sulla Gazzetta dell'Emilia il 5 febbraio del 1909, ma in realtà questa uscita non produsse l'effetto che Marinetti si aspettava, e allora la scelta di Marinetti di tradurlo in lingua francese e di proporlo nel Figaro fu un'idea geniale, perché questo gli permise di avere come audience il mondo intero, il mondo dell'arte intendo naturalmente. Allora, Valerio Terraroli, questo introdurre questa prospettiva così originale della visione, quindi sappiamo, focalizzata, basata sull'esaltare la velocità, il movimento e questa dinamicità dei soggetti raffigurati nelle opere futuriste, questo modo di intendere l'arte come tutt'uno con la vita, nelle varietà delle sue molte forme, è davvero una prerogativa futurista? No, io non ritengo che sia una prerogativa futurista, nel senso che il futurismo è certamente una novità assoluta nell'ambito del panorama artistico dell'Europa del primo Novecento, però non è avulsa da un percorso e da una storia, anzi, in realtà il futurismo è un prodotto, è il risultato di un percorso che è cominciato prima del futurismo e che fa parte di una modalità e di un pensiero e anche di un'utopia, come del resto il futurismo è e come sono parte delle avanguardie a cui il futurismo appartiene, cioè l'idea di poter pensare che l'arte nella sua integrità, nella sua interezza, cioè un'arte totale, potesse modificare il mondo e quindi i rapporti sociali, i rapporti economici, i rapporti estetici tra individui e arte. E poi si diverte pazzamente, smisuratamente, non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto, queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Per approfondire l'argomento, vi segnaliamo il libro di Fabio Benzi, Il Futurismo, edito da Motta Editore. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Vittoria Mussini. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.